Radio 24 presenta Il riposo del guerriero con Stefano Gallarini. Sono le 10:09, buona domenica da Stefano Gallarini, comincia Il riposo del guerriero. Subito vi do i numeri, per esempio quello per i vostri messaggi al 349-238-6666, magari volete fare qualche segnalazione che riguarda l'argomento di oggi che tra poco vi svelerò. Poi voglio ricordarvi invece alle 11:30 il mistero in 24 minuti, per voi la possibilità di portarvi a casa fino a 1000 euro da spendere su libreriarizzoli.it, e sono pronto anche a farvi sentire il primo indizio, che è il riascolto 1, lo comunico sempre. Intanto devo fare le congratulazioni in regia a Filippo Reggi, che è qui in questo momento, semplicemente perché ieri è accaduta una cosa, 17, cos'era ieri? Sì, una cosa particolarmente importante, due giorni fa, per la sua vita, per cui insomma congratulazioni a te e tua moglie ovviamente, e vi faccio sentire il primo indizio di questa settimana. Eccolo qui, questo è il primo indizio, per cui per voi appunto la possibilità di portarvi a casa fino a 1000 euro, ammesso che riusciate a risolvere il mistero solo con un indizio, ma più indizi ascolterete più il premio si abbasserà. Il numero verde per prenotarvi 800 24 00 24, potete farlo già da adesso, e vi ricordo che la risposta può essere una notizia della settimana oppure di qualcosa di particolarmente conosciuto o un personaggio. E veniamo all'argomento di oggi. Oggi ci occupiamo di rete, perché è successo che ormai YouTube e Facebook in qualche modo possono sconfiggere la televisione, lo stanno dimostrando. Di conseguenza oggi cercheremo di andare a scoprire i fenomeni della rete, cercare di capire perché funzionano e, se c'è qualcosa che non funziona, come invece farla appunto funzionare. E cercheremo anche di capire perché la TV non funziona più, che cos'è che le persone ormai cercano, e non parlo solo di nativi digitali, ovvero di quelle persone che sono nate già con la tecnologia in mano, ma anche chi invece la tecnologia l'ha scoperta mano a mano, e di conseguenza la rete sta veramente catturando una straordinaria quantità di persone. Di questo parliamo nel riposo del guerriero, anche con i vostri contributi ovviamente. C'è la pagina Facebook dedicata al programma che servirà a parlare con noi. E allora, visto che la rete molto probabilmente ci fa sorridere perché è piena di ironia e anche di cattiveria a volte, ma cattiveria che ci fa sempre sorridere, ho pensato di aprire con questa canzone dedicata a un uomo straordinario della storia del cinema, che è Charlie Chaplin. Infatti l'ha scritta lui e interpretata da un altrettanto straordinario personaggio del mondo della musica, che ormai non c'è più, che però sicuramente sarà per sempre ricordato. If you smile through your fear and sorrow, smile and maybe tomorrow you find that life is still worthwhile. Interpretazione di Michael Jackson di Smile di Charlie Chaplin, è venuto a partire proprio così, anche per salutare il nostro ospite che è Sergio Rinaldi. Ciao Sergio. Ciao Stefano. Ma come faccio a presentarti? Io voglio dire, l'ideatore di Aperitivo Corto, che è una manifestazione che ormai sta avendo un straordinario successo. Va benissimo. No, però sei anche un regista, questo è. Sì, no, certo, però sì, oggi no, sì. Sono in veste di entrambe cose. Quindi ho cominciato con Charlie Chaplin in qualche modo. Sto piangendo. No, non è per quello, è perché Charlie Chaplin chiaramente ha cambiato un po', ha rivoluzionato il modo di fare cinema. E come oggi la rete sta cambiando il modo di fare cinema. Ma in effetti lui a un certo punto, a furia di frequentare le major, ha deciso praticamente di aprirsi i suoi studi e di organizzare il suo cinema, tant'è che praticamente ha avuto un successo pazzesco e le major si sono poi pentite di non averlo ascoltato prima ha cambiato praticamente il mondo del cinema. Ecco, tra l'altro c'è una cosa curiosa, per cui ha sempre detto che il pubblico non va inseguito, non bisogna mai fare una cosa per il pubblico, perché se tu cerchi qualcosa, se cerchi di fare qualcosa che piaccia al pubblico, immancabilmente sbagli. Tu devi fare quello che il cuore ti comanda di fare, che il tuo intuito ti comanda di fare, e poi se piacerà sarà il pubblico a decretarne il successo. Se tu invece lo insegui, automaticamente non ci riesci, insomma, perché non sai mai il pubblico dove voglia andare. Io penso veramente che a furia di inseguire tutto il pubblico, sì, perché il pubblico è diverso, certo, no? Noi lo vediamo in tutte le serate, cioè ci sono dei cortometraggi che noi proiettiamo, poi magari spieghiamo meglio cos'è il pubblico, certo, corto, sicuramente, che magari a me personalmente non piacciono e al pubblico piacciono tantissimi. Quindi il punto è che se tu cominci a scegliere tutto il pubblico, 60 milioni di persone, non vai da nessuna parte. Non vai da nessuna, cioè, parte, cioè continui, il livello continua ad abbassarsi. Parleremo oggi anche del livello che si abbassa. Proprio quello è uno dei punti cardine proprio della puntata di oggi. Gli aggiornamenti sul traffico, poi entriamo nel dettaglio. Il riposo del guerriero. Con Sergio Linari stiamo parlando dei fenomeni del web. Allora entriamo nel dettaglio di intanto spiegare cosa sia aperitivo corto. Allora, aperitivo corto è oggi una delle più grandi manifestazioni di cinema indipendente, si svolge praticamente nei locali di aperitivi e proiettiamo praticamente i cortometraggi in teoria dei giovani registi italiani, ma questa cosa sta cambiando perché anche l'Europa tra poco entrerà in questo discorso e quindi proietteremo, diciamo, tutti i corti internazionali. Ecco, tutto è nato dal web, però. Sì, sì. Quindi come? Allora, si è svegliato un giorno. Allora, abbiamo iniziato a fare la serata di aperitivo corto, diciamo facendolo in maniera diversa, non facendo un festival di 2 o 3 giorni messo da qualche parte nella città dove la gente doveva raggiungere. L'idea era uniamo i cortometraggi, facciamo vedere i cortometraggi alla gente, quindi portiamoli dove c'è già la gente, non li obblighiamo, sì, a muoversi, e poi sarà la gente a scegliere di star seduta lì oppure andarsene. Infatti, certo, le prime serate erano tipo la gente che si alzava, diciamo, cos'è questa roba qua, e se ne andava. Abbiamo fatto 10 serate a Milano, abbiamo visto che ha funzionato, che la prima serata sono venute 3 persone, la seconda 4, l'ultima il passaparola era 15, certo, ha avuto il abbiamo detto perché. Ma apriamo un sito, e visto che comunque abbiamo creato un format, cioè i corti erano quelli, le votazioni erano quelle, mettiamo un banner sul sito e chiediamo chi vuole portare aperitivo corto nella propria città, così il circuito milanese piccolino, perché noi siamo in una città piccolina, diventerà magari composto da 2, 3, 5 città, e proviamo. Nel giro di 3 mesi sono diventate 12 le città e oggi sono 35. Ecco, tutto quindi con, insomma, in quanti anni tutto questo? 5. 5 anni, poi c'è un'iniziativa che partirà il 21, ne parliamo dopo sicuramente, per cui come la rete è stata l'esordio di un successo, diciamolo francamente, è così. E Benedetta Argentieri, buona domenica. Buongiorno. Ciao Benedetta. Insieme ad Andrea Galli, sì, avete scritto un articolo che è apparso anche sul Corriere.it, sito giornalista del Corriere della Sera, intitolato "Se YouTube e Facebook sconfiggono la televisione". E volevo partire proprio da qui, perché dalle elezioni milanesi e forse anche al raggiungimento del quorum di quello che è stato il referendum, insomma, la rete ha avuto il suo perché. Non è stato forse l'unico, ma il suo perché l'ha avuto. Ecco, e molti pensano che sia stato uno degli elementi determinanti. Io non so, però sicuramente ha fatto la differenza, perché la rete, è cambiato molto l'uso della rete dagli stessi cittadini nell'ultimo periodo, nell'ultimo anno. Facebook, Twitter, mentre prima avevano anche un utilizzo futile, perciò vado a trovare il mio vecchio compagno di classe delle elementari anziché parlare con i miei amici, ha cominciato anche a essere un mezzo per informarsi e mobilitarsi, una piazza virtuale, chiamiamola così, e soprattutto durante il referendum e le elezioni anche di Napoli, insomma le ultime amministrative, ha avuto, insomma, ci sono viste video, appelli per andare a votare, tutta questa serie di cose qua che sicuramente ha cambiato. diciamo. Certo, e senti Benedetta, io parlavo prima di nativi digitali perché credo che il popolo della rete, ormai chiamiamolo così, non sia soltanto di nativi digitali, ma si stia spostando verso invece chi la digitalizzazione l'ha imparata in qualche modo. Sicuramente, diciamo che quella forchetta che va dai 25 ai 50 anni, sono ormai il 65% del popolo della rete, quindi non si parla assolutamente di nativi digitali, ma anche di persone che hanno visto, insomma, cadere l'egemonia della televisione, chiamiamola così, e hanno voglia di altro. E quindi usano questo mezzo in maniere diverse. Certo, i nativi digitali partono avvantaggiati, perché se per noi l'iPad può essere uno strumento, insomma, da tutto da scoprire, per loro è assolutamente naturale. Sì, anche se ormai devo dire che la tecnologia è talmente intuitiva che diventa semplice per tutti. Benedetta, come giornalista, io volevo chiederti che impressione hai della qualità dell'informazione su internet? Sicuramente è ancora da affinare, nel senso che noi siamo arrivati un po' in ritardo rispetto ad altri paesi europei, e abbiamo ancora pensiamo ancora che il giornale, la carta, sia, almeno lo vedo anche nelle nostre relazioni, sia ancora il primo mezzo. Ecco, scusami, se apro una parentesi, quindi tu ritieni per esempio che i siti di testate cartacee accreditate siano più autorevoli rispetto ai blogger in generale? Come opinione? Secondo me no, però diciamo che c'è ancora questa mentalità. Esatto, parlavo di quella, infatti, non la tua opinione, ma esatto, la gente pensa questo, insomma. La gente pensa ancora questo, sì, che magari quello che scrive il Corriere.it sia più autorevole di un altro blogger o eccetera. Può essere, non può essere, questo, insomma, bisognerebbe anche un po' provarlo, però questa mentalità è ancora molto diffusa. Quindi tu dici, cosa si potrebbe fare per spostare l'attenzione anche su un altro tipo di informazione? Beh, diciamo che adesso si sta spostando molto, anche perché spesso e volentieri ci ritroviamo magari a rincorrere delle notizie che appaiono in rete, anche magari come semplici scherzi, che poi diventano notizie. Mi riferisco per esempio alla questione di Sucate, oppure, insomma, il favoloso mondo di Pisapì. Sono stati dei casi ironici e noi giornalisti ci siamo ritrovati a rincorrere, tuffati. A certo, tra l'altro poi oggi parleremo anche di chi è protagonista proprio dei video, non solo quelli che hai citati ma anche altri. Quindi si andrà verso, insomma, internet. Tu dici, secondo te a un certo punto davvero il titolo che avete dato avrà peso, cioè YouTube e Facebook sconfiggeranno la televisione in generale, la rete? Sì, guarda, noi abbiamo parlato anche con un docente del Politecnico che si chiama Francesco Sigliato, che lui, con i dati alla mano, diceva che ormai sempre più persone usano la rete per informarsi, mentre la televisione è un mezzo per rilassarsi, per vedere serie televisive, film, eccetera, ma non perché c'è stata una sorta di sfiducia nei confronti della televisione e dei telegiornali in particolare. Certo, poi ci sono casi come Santoro, la Gabanelli, che fanno uno share altissimo, ma quelli, appunto, il docente ci teneva a sottolineare, sono dei casi, non è quello che poi pensa la maggior parte delle persone, che la televisione non piace più per informarsi. A me, certo, anche perché la si fa così, la si fa tanto per farla a volte. Grazie Benedetta Argentieri e buona giornata, ciao. Anche a voi, ciao. Love of the Upper is nice. diventato l'Elemor. Io credo che tutto sia partito da questo, dal ritornello, magari mi sbaglio. Sora Cesira, ciao, buona domenica. Ciao, buongiorno, buona domenica, come state? Ciao, bene, bene. Senti, ma ho ragione, è partito tutto perché tu hai detto Tell me more, l'Elemor ci assomiglia, parto da lì. O mi sbaglio? Guarda, un po' sì, un po' no. Nel senso che io avevo l'idea di fare questo Hardcore Nights. Poi mi mancava qualcosa, dicevo, che cos'è che mi manca? Tell me more, ho fatto, ma cavolo, l'Elemor. E quella è stata l'apoteosi. Allora, la Sora Cesira.blogspot.com è un blog che c'è da molto tempo, dove la Sora Cesira, che è quella che state ascoltando, e questo è proprio il suo nome e cognome, la Sora Cesira, ecco, diciamo, sì, è proprio questo. E succede che lei ha sempre fatto video ironici, molto divertenti, a un certo punto però arriva Hardcore Night, e con Hardcore Night arriva il successo mediatico nel vero senso della parola. Oh Dio, che esagerazione. Successo è una parola enorme. Beh, successo perché non so quante visualizzazioni abbia fatto, però insomma ne hanno parlato veramente tutti. È stato ripreso da tantissimi quotidiani. Prima parlavamo proprio dell'autorevolezza dei quotidiani, e quindi è stato ripreso anche da tutti i quotidiani importanti e autorevoli, diciamo così. Per cui da lì si è mosso molto, penso anche il tuo impegno poi di dover produrre. Sì, effettivamente sì, perché adesso ormai sono un po' prigioniera della Sora Cesira, nel senso che succede qualcosa e tutti, ah Sora Cesira, fai un video. E allora io spiego con gentilezza che la Sora Cesira, tra l'altro, fa i video no profit, nel senso che non ci guadagna una lira. E forse deve fare qualcosa. Deve anche fare qualcos'altro per lavorare, perché la gloria non basta, non paga. Questo per me è molto chiaro. Poi vedremo anche la tua esperienza con gli Sgommati e c'è qualche comunicazione per voi. Sora Cesira, rimani con me, anche perché c'è Sergio Rinaldi con me, l'ideatore di Aperitivo Corto, che ha qualche domanda da porti e una richiesta per te. Il riposo del guerriero. Stiamo parlando di fenomeni dalla rete, fenomeni che poi diventano la nostra quotidianità in qualche modo. Sora Cesira, torniamo a te. Allora, siamo partiti appunto da Hardcore Night, poi stavo spiegando che tu hai iniziato una collaborazione con gli Sgommati, programma in onda su Sky 1 tutti i giorni alle 21, e credo che ti abbiano cercato loro. Sì, in effetti dopo Hardcore Night ho ricevuto una email del produttore degli Sgommati, Carlo degli Esposti, che mi ha chiesto di incontrarlo e mi ha proposto di collaborare, e io ho preso l'occasione al volo. Tra l'altro è stata un'esperienza divertentissima, abbiamo compiuto venerdì 100 puntate e dal 26 settembre inizierà la seconda serie. Sono molto contento che li ho intervistati proprio all'inizio, insomma sì, mi piace molto, mi fanno molto ridere, perché si può fare veramente satira senza prendendo poi di mira tutti, e poi questo è il divertimento. Sì, certo. La ecco, satira è trasversale, a parte la Sora Cesira che chiaramente... Sora Cesira è poco trasversale, ma questo ma certo, adesso poi sto scherzando. Sora Cesira, quando tu scrivi i testi delle canzoni, molto spesso bisogna seguire per forza i sottotitoli, altrimenti non si riescono a capire, ed è lì poi che nasce il gioco, perché leggendo i sottotitoli capisci quello che viene cantato e ridi. Ma Hardcore Night non ce li ha i sottotitoli? No, sì che ce li ha Hardcore Night, guai se tu senza sottotitoli. Ah no, ce li ha però nel quello che dicono. Sì. Cioè non è italiano. No, assolutamente. Esattamente, è come se fosse un karaoke. Sì, esatto. Ecco, ma è un romano inglese. Ma come fate a costruirlo? Ma guarda, in realtà non è così difficile. Sì. Io sono una facilitata perché faccio la musicista di professione, quindi una certa dimestichezza con i suoni ce l'ho. E niente, parto nel caso di Hardcore Nights, sono partita dalla vicenda di Hardcore, e ho cominciato a scrivere questo testo partendo proprio dalle cose semplici, che era Love the Escort and Evelyn, è uscito così, e poi tutto il resto. Generalmente non è molto complicato scrivere i testi, diciamo che è un dono naturale. È proprio un dono, ecco, nel senso che bisogna averlo, perché è vero che quando quando si scrive una canzone, prima di scrivere il testo si fa il finto inglese, no? Il vecchio Prison and Core in Ancient and Chusel, esatto, e nasce da quello, no? Il finto inglese che serve a farti capire come sarà la canzone, poi ci devi scrivere un testo vero, e per cui un po' si parte da lì, ecco, probabilmente. C'è Sergio Rinaldi che aveva una domanda per te. No, ma qui c'è anche la difficoltà difficoltà, stavo dicendo che poi io ho visto anche altri video, sì, tanti, perché naturalmente sto facendo il filo a Sora Cesira, che naturalmente la vuoi sposare? La voglio sposare, ti sì. Dico che è la stessa che appare come schermata principale, come foto principale, ecco, del suo vedi? Blog, ecco. Vedi, non sei carino, perché subito sul fatto fisico punti, invece dietro la Sora Cesira, che è tanta, sì. Ci sono, c'è simpatia, c'è un no, bel carattere, infatti. E poi comunque non ti intromettere, perché stai rosicando, sei gelosa. No, aspetta però, Sora Cesira, sei tu che hai detto quello? Io ho detto, e guarda che la foto, cioè li ho semplicemente, mica ho detto, fatto commenti sulla foto, ho detto, è la ragazza nella foto. Ma io già la conosco. Non ho fatto nessun commento, sei tu che ti sei auto censurata. No, mi piace. Comunque noi vorremmo Sora Cesira naturalmente ospite dentro nel pacchetto di aperitivo corto nelle serate. Ma io vengo soprattutto perché nell'aperitivo corto si beve e si mangia. Esatto. Poi si vedono esatto. Anche i corti. Esatto. Ma io a quel punto sono in coma etilico, quindi. Quindi sicuramente ti chiamerò dopo la trasmissione e ci metteremo d'accordo su come averti ospite. La cosa che dicevo è che qui Arcoles Night ha un'ulteriore difficoltà, che è praticamente il labiale che sì. Hanno inserito precisamente con i rumori, hanno fatto un bellissimo lavoro. Quanti cantanti siete, Sora Cesira? Siamo due. Soltanto due, quindi tu fai le voci di tutte le donne? Io faccio tutte le voci femminili e un mio amico assistente che fa il tecnico del suono fa le voci maschili. Beh, quindi siete particolarmente bravi, ve lo dico proprio con il cuore. Brava, perché sì, è sì, proprio sì. Vero. Io pensavo che foste un gruppo un po' più folto, diciamo così, di voci. No, siamo due. Quanto credi nella forza del web a questo punto? Tantissimo. Ma io non è che credo da oggi alla forza del no, web. No, perché il blog nasce prima di tutto questo successo. Ma è nato, diciamo. No, ma a prescindere dal blog, che è nato per gioco e per scherzo, per hobby, sì. Un anno fa, sì. Io credo nella forza della rete da tanto tempo. Infatti tutta questa sorpresa, la rete ha fatto chissà che cosa, ma la rete è tanto, sono tanti anni che fa. Solo che non se ne parla. Cambiare. Ma se ne parla in queste occasioni, perché ci si rende conto che la televisione è sorpassata e che... Perché la rete in questo momento è tutto, perché permette interazione, cosa che invece la televisione non permette, anzi scherma e a volte arriva a censurare. Anche a te faccio la stessa domanda, come trovi la qualità dell'informazione della rete? Come la trovo? Cioè secondo te c'è una grande qualità oppure si dice un po' tutto, un po' troppo di tutto, per cui insomma alla fine... Sulla rete? Sì, sulla rete. Si dice, la cosa bella è che si può dire tutto. Sì. E poi uno deve scegliere, deve capire, si deve confrontare. La cosa grave è che la stessa cosa, cioè che si possa dire tutto, succede invece sulla televisione, invece quella cosiddetta di Stato, per la quale noi utenti dovremmo pagare il canone. E questo un po' mi fa pensare. Il web è libero e la TV non lo è. Insomma, questa poi è una vecchia discussione, insomma, si potrebbe aprire un altro dibattito, sai bene anche perché. Vedremo cosa succede. Tu hai un pronostico di tempi, per esempio, quando a un certo punto, secondo te, parliamo dell'Italia, la rete supererà la televisione, se questo accadrà? Guarda, credo sia innanzitutto un problema tecnico. Sì, c'è cioè il raggiungimento della linea sì. Banda larga, sì, ovviamente. Fondamentale, perché se ci fosse... la velocità di trasmissione che c'è in molti altri paesi, probabilmente la rete sarebbe sul televisore, cosa che piano piano sta succedendo e che inevitabilmente succederà, cioè il televisore oggetto sarà il monitor della rete, per cui si andrà oltre le trasmissioni di satellite, oltre le televisioni. Certo, molte TV di oggi, acquistate oggi, permettono di navigare tranquillamente in rete, hanno la connessione internet, per cui tu dici tutto sarà integrato e quindi sarà anche più facile usufruirne, sicuramente. Ma guarda, è inevitabile. Allora, Sora Cesira, noi ti aspettiamo, a questo punto anch'io ti dico, aspetto un tuo nuovo video, ovviamente, come fanno tutti gli altri, ti auguro io anche di guadagnare molto. Io aspetto quello Arcoles Night. Arriverà, ma adesso ti faccio ascoltare un'altra cosa, va Sergio, bene. Magari l'hai persa e se la sono persa gli ascoltatori voglio farvela ascoltare un pezzettino. Ti saluto su Vot, ovviamente, che è la parodia di Vogue, straordinaria canzone di Madonna. Grazie, sono Cesira, buona grazie domenica. Grazie a voi, buona domenica. Ciao. Ciao, a presto, ciao. Yeah. scusate, ma come dice all you need is to alz your culo moscio, tradotto è tutto quello che avete bisogno è alzare il vostro culo moscio e andare a votare per il referendum, vote vote. E qua devo applaudire Sora Cesira, no, ma perché... è bravissima. Cioè, ma poi la, allora la cosa che rende praticamente più interessante il web sono le idee. Sì, cioè Sora Cesira ha avuto una, per dirne una, ma può essere anche 12, perché io ne ho visti parecchi di suoi video, tutte idee carine, che poi alla fine il Arcore Knight è stato, diciamo, quello che ha fatto esplodere, ha fatto conoscere. Ecco, prima ce n'era un altro che raggiunge un posto all'ATAC, sì. Quando è venuto alla luce il problema dei posti di lavori dell'ATAC dati a parenti e amici, lei aveva ricantato aggiungi un posto a tavola dicendo aggiungi un posto all'ATAC, e già quel video era particolarmente interessante. Sì, però era più magari localizzato. Sì, sicuramente. Anche perché, che ne so, c'è gente che sta ad Aosta che l'ATAC non sa mai cos'è. Una colla. Esatto. Invece con Arcore Knight poi uno va a vedere sul blog, è un modo di anche trasportare la gente, perché diceva ne ha fatto uno, vediamo cosa ha fatto anche di altre. Invece volevo dirti una cosa sul rispondere online, sì. Del fatto che tu sai bene che ci sono state parecchi anni fa, ma può essere anche 5-6 anni fa, dei politici che a un certo punto hanno detto vabbè, sai cosa c'è, siccome ci sono tanti modi di comunicare mettiamoci anche su internet, e hanno aperto il loro blog su internet. Di Pietro per esempio. La gente ha cominciato a scrivere facendo delle domande, sì. E loro naturalmente quando si sono visti arrivare delle domande, diciamo la stessa quantità che di solito arriva a Babbo Natale, hanno chiuso il sito, perché giustamente dicevano non possiamo mica stare tutto il giorno a rispondere a questi che ci scrivono. La forza di un blog e di un blogger e di un sito o di un festival come il nostro è che a volte c'è gente che ci scrive, a volte so, tutti i giorni, poi con i social network a volte ti insultano tra virgolette, perché magari dicono ah siete fate soltanto questo, oppure siete raccomandati di qua. La cosa bella è non cancellare il messaggio mai, ma rispondere educatamente, e poi sono gli utenti che dicono va bene, allora ti cancello, scuso, sbagliato. Però se tu non rispondi, cosa che naturalmente gli utenti si aspettano, diventi praticamente, come si dice, un angolino perso nel web. Quindi dice avere considerazioni comunque di tutti. Internet funziona nel momento in cui tutti possono fare domande e ricevono delle risposte, altrimenti diventa la televisione. Concordo con te, tant'è vero che quando arrivano anche dei messaggi non belli al mio programma io li leggo, non ho nessun problema. Chiaro. A commentare, perché comunque è una replica che devi dare, no? Perché poi uno giustamente esprime la sua opinione. E parliamo proprio dell'innovazione, perché anche qui c'è un lungo dibattito, nel senso che internet, anche la Sora Cesira lo diceva, permette a tutti di fare tutto, e io questo non so quanto sia bene e quanto sia male, e non so neanche se dover decidere onestamente. E però è una domanda che mi pongo, perché io sono per esempio una di quelle persone attente alla qualità, e io quando non vedo la qualità un po' mi innervosisco. Allora, internet in effetti ti dà la possibilità di vedere qualsiasi cosa, dalla roba brutta nel senso che artisticamente brutta, si è fatta male, fatta diciamo male così. Fatta male, ma abbiamo anche degli esempi di cose fatte non perfettamente bene che diventano trash e che hanno un successo pazzesco. Ecco, quello scusa del trash però passa tutto, no? Sì. E quindi quello comunque è un po' un dubbio che ho. Non riesco a cancellarlo questo io, dubbio. Io che vedo praticamente un sacco di cortometraggi al giorno, perché noi ne riceviamo veramente tanti, sì. A volte praticamente decidiamo che un cortometraggio fatto male, se messo nell'angolo del trash, diventa una chicca. Sì. Se però questo, diciamo, autore barra artista ci manda il secondo e il terzo cortometraggio fatti in modo identico, non può essere, nel senso che vuol dire che lui produce soltanto cose brutte, e quindi o dentro c'è l'idea e quindi è un'idea illuminata e nel trash ci sta bene, perché alla fine dici questo è un pazzo, ma va bene, se invece fa solo quelle cose la gente ti abbandona perché va bene, ci ha fatto ridere la prima volta. Ah, ecco, quindi tu dici funziona così, una selezione che poi arriva da sola con il tempo. Automaticamente. Sì. Questo è interessante perché è un punto di vista interessante. Carlo Di Biagio, ti chiedo di restare un attimo in linea, do gli aggiornamenti sul traffico e poi appunto vi presento il prossimo ospite. Il riposo del guerriero. Claudio Di Biagio, ciao, buona domenica. Ciao, grazie, buona domenica a voi. Allora, Claudio è un youtuber, cioè sì, quelle persone che a un certo punto si mettono a pubblicare dei video su internet. Il suo canale è un, cioè un, ha un canale che non aprite quel tubo. Questo tubo. Questo tubo, scusami. E succede che poi a un certo punto viene chiamato per costruire una fiction vera e propria che si chiama Freaks. Tu sei il regista, se non mi sbaglio, insieme. Sì, regista e creatore insieme a, ad altre persone. A Teo Bruno, sì. E quindi tutto parte dalla rete. E sì. Io comincerei con questa domanda. E, cioè, tu dici, io faccio quello che mi viene, se ho in testa una cosa la faccio e via. Uh-huh. Funziona così. Quindi, assolutamente sì. Quindi i filtri non esistono. Per niente, perché comunque la cosa che noi abbiamo fatto con Freaks, che è appunto questa web series che abbiamo prodotto, anzi autoprodotto, sì, è proprio la, il fatto di avere un'idea che secondo noi poteva funzionare per le persone che guardavano i nostri canali e comunque visitavano YouTube e il web, e quindi abbiamo detto proviamoci, è un gioco. La cosa bella di YouTube e di internet in generale, come dicevate anche voi prima, è che tutti possono fare tutto, poi ovvio ognuno sceglie la qualità, il modo, il formato e il linguaggio per fare quello che vuole, però al contempo è una cosa bella e brutta, nel senso che ovviamente ti butti in pasto alla gente, quindi se qualcosa non va o non funziona si vede subito tramite non mi piace, tramite i commenti negativi, tramite le non visualizzazioni. Quindi beh, ma questo succede anche in televisione, nel momento in cui uno vede un programma che non gli piace cambia canale. Adesso col digitale terrestre hai 900 canali, quindi però è molto meno controllabile, nel senso uno tutti i giorni può vedere in internet, cioè su YouTube si vede numericamente in modo molto preciso quanta gente vede, quanta gente commenta. Sì, perché commenta. Comunque puoi apprezzare o meno una cosa che stai guardando, hai guardato. Io sai, forse sarò vecchio in qualche modo, no? Però sono sempre un po' attento alla qualità, ma in genere, no? Dell'arte, tra virgolette. E mi ricordo una canzone di Lucio Battisti che diceva: l'applauso per sentirsi importante senza domandarsi per quale gente. Allora, qualche giorno fa leggevo il pubblico di Italia's Got Talent ed è un pubblico mediamente sotto la media superiore, che non ha finito neanche la scuola, del centro-sud. E questo un po' mi faceva pensare, diciamo che in Italia's Got Talent molti talenti italiani che sono passati sono persone che usano l'aria o dalla bocca o da un'altra parte, e per cui io non so se quella si può chiamare cultura semplicemente perché tanto si fa, io provo a farlo, mi diverto e poi se va bene. Ecco perché ho qualche dubbio su questo tanto lo faccio, semplicemente questo è il mio punto di vista. Però quindi volevo capire, Claudio, il tuo approccio adesso che stai crescendo, se è cambiato e com'è cambiato. Beh, assolutamente sì, io comunque la cosa molto semplice che faccio quando realizzo qualcosa, volendo fare il videomaker e il regista, almeno provando a farlo, è proprio quello di puntare a qualcosa di più, nel senso, quando abbiamo pensato Freaks abbiamo detto guardiamo un attimo intorno a noi quello che c'è in Italia e anche quello che c'è fuori, puntiamo a fare meglio, nel senso puntiamo a fare ovviamente con i nostri mezzi e quello che avevamo qualcosa che potesse intrattenere, potesse piacere alla gente e potesse piacere a noi, la cosa più importante credo, perché comunque la maggior parte delle persone adesso sbagliano e su YouTube cercano notorietà semplicemente facendo qualcosa che già gli altri hanno fatto e quindi emulando e quindi andando a sbagliare perché magari non si divertono, si trovano costretti tra virgolette in dei paletti di formato video che non appartengono a loro. È quello che dicevo all'inizio, quello che diceva Charlie Chaplin, non lo dico io, però voglio dire appunto più si insegue il pubblico e più si sbaglia, per cui tendi a crescere. Claudio, quanti anni hai tu? Poco più di 20 se non mi 22. sbaglio. 22. Il tuo futuro come lo vedi? Cioè, quale sarà la tua professione del futuro? Ma io spero regista, nel senso che comunque è la cosa che mi piace di più e che soprattutto vedo che mi appassiona di più, nel senso che grazie a Freaks io ho capito varie cose, nel senso comunque abbiamo fatto 3 mesi di set effettivi, quindi c'era una troupe, c'era uno staff tecnico che seguiva me e Matteo, l'altro ragazzo che ha fatto con me la regia, quindi io ovviamente sul set ho visto le cose che mi piaceva fare, le cose che non mi piaceva fare, e quindi piano piano con l'esperienza, che credo che sia la cosa essenziale, capisco anche quello che voglio fare. Poi ovvio tutto cambia e qualsiasi cosa può succedere, no? Speriamo bene, insomma. Vabbè, se te lo auguriamo sicuramente. Ma tu stai facendo una scuola di cinema, per esempio, domani? Assolutamente no, nel senso io e Matteo facciamo cortometraggi da quando abbiamo 15 anni e per esempio la cosa molto buona è che il nostro ultimo cortometraggio è arrivato al Festival di Cannes, quindi comunque... Come si intitola il tuo cortometraggio? Allora, B-Side, è un cortometraggio che parla appunto di un serial killer che deve fare l'ultimo lavoro, ma appunto c'è un gioco di sceneggiatura secondo il quale lui non riesce a capire chi deve uccidere. E quindi, capendo che questa cosa comunque ha funzionato, anche guardando i nostri cortometraggi, a volte lo facciamo per vedere come siamo cresciuti, si nota proprio dal primo fino all'ultimo e poi ovviamente dopo Freaks, capisci magari dov'è che prima sbagliavi, qual è la cosa che ancora sbagli, quali sono le... Ecco, io adesso la domanda la rivolgo a Sergio, invece, da regista che ha lavorato anche con registi particolarmente importanti, e la domanda è questa: è importante fare una scuola di cinema? Io dico sempre di sì, cioè, no, ma nel senso, no. Allora, esistono i geni, quindi sì, sicuramente quelli che magari imparano sul set, però io ho iniziato praticamente a 17 anni a girare, forse anche 16, il mio primo filmino Super 8 con i miei amici del quartiere. Poi a un certo punto della mia vita ho detto: ok, sono arrivato qui, so tutto, ho bisogno di una scuola, cioè ho bisogno che qualcuno mi prenda tutte le informazioni confuse che io ho e me le inserisca nel posto giusto, nel senso che all'inizio io, ad esempio, il piano americano sapevo più o meno che cos'era, ma precisamente non lo sapevo. Ecco, anche perché quando hai a che fare con un mestiere spesso ti trovi a che fare con dei termini tecnici che devi assolutamente conoscere, semplicemente perché quando hai il direttore della fotografia con il quale ti devi confrontare devi sapere che cosa dirgli. Assolutamente. Non puoi dire: ah, inquadrami se la faccia, perché non si dice così, cioè, sbagliato proprio. Esatto, però nel senso che ci sono, diciamo, siccome c'è una nuova epoca, cioè io sono convinto che ci sono dei momenti dai dinosauri ad oggi, ci sono dei momenti in cui si spacca la terra, si spacca, e si aprono dei momenti in cui c'è il cambiamento, e se la gente si riesce a mettere in quella spaccatura, allora cambierà il mondo assieme alla spaccatura. E quindi può essere che questo sia anche un momento in cui ci sono tanti, diciamo, filmmaker che non sono registi, sono quelli che fanno le cose, sì, in autonomia, riescono a prodursi delle cose geniali, e poi magari con delle strutture alle spalle riescono praticamente a fare dei prodotti anche migliori, anche perché, come giustamente diceva Claudio, è vero che YouTube ti dà il numerino sotto, e io ne ho un'esperienza personale certo, scottante, perché ancora oggi mi riconoscono per quella cosa, che è Sesso a Milano, esatto, lo diciamo, Sesso a Milano, che ne ho fatto delle cose bellissime, eppure la gente ancora con sti piccioni. Vabbè, detto questo, è vero che c'è il numerello sotto, però poi una produzione ha bisogno anche di un target, ha bisogno anche di sapere chi lo sta guardando, ha bisogno di sapere se sono uomini o donne, cioè E infatti questa era la mia ultima domanda a Claudio. E Claudio, che è questa: tu hai la percezione del tuo pubblico? Cioè, sai, sì, chi sono? Assolutamente sì. Chi sono? Allora, principalmente sono ovviamente ragazzi, e sono proprio quelle persone che hanno voltato totalmente le spalle alla televisione. La cosa che a noi hanno detto molte persone, anche addetti al lavoro del cinema e della televisione, è che noi abbiamo risposto a una domanda, abbiamo fatto una cosa molto molto semplice, sì, nel senso, delle persone volevano questa cosa, volevano qualcosa di gratuito, comunque che intrattenesse, che fosse tra virgolette di qualità, perché ovviamente si può migliorare tantissimo sotto migliaia di punti di vista, e questo target, che appunto sono i ragazzi dai 13 ai 27, quindi tutta alla generazione nuova, tra virgolette, che ovviamente usa internet, aveva questa domanda a cui nessuno aveva ancora risposto. La cosa che noi abbiamo fatto molto semplice è stato: vediamo queste serie televisive americane e inglesi che ambientano tutto appunto nelle città lontane, che con realtà che per quanto uno possa sentirle vere sono comunque lontane. Perché non facciamo una cosa a Roma? Nel senso, immaginiamoci uno che sotto il Colosseo prende e inizia a volare o lanciare sfere di energia. Potrebbe essere una cosa interessante, potrebbe essere una cosa che funziona per tante persone che vivono qui. Questa è stata semplicemente la domanda a cui io mi sono risposto, ho detto facciamo Freaks. Bene, allora Claudio, insomma, complimenti e in bocca al lupo per il tuo mestiere. Poi so che ho detto una cosa che è stata interpretata come al solito al contrario, ma ne parliamo tra poco nel Riposo del Guerriero. Il Riposo del Guerriero. 11 e 6 minuti, continua il Riposo del Guerriero. Oggi stiamo parlando di fenomeni dal web. Io prima ho detto una cosa che non vorrei fosse stata fraintesa. C'è Carla che scrive un messaggio, dice: ci sono persone del sud con la terza media che hanno un gusto che nordici laureati nemmeno si sognano. Infatti non era questa la discussione, ma era tutt'altro, solo che forse non sono stato compreso, non mi sono spiegato. Bene, allora io mi lamentavo di questo fatto. Parlavamo del pubblico e della qualità dei programmi e dicevo Italia's Got Talent, che è visto secondo i dati da un pubblico del centro-sud e con una grande maggioranza di persone sotto la media superiore, e io dicevo propone un programma con la qualità che lascia un po' a desiderare, insomma, perché i talenti italiani spesso sono delle macchiette, insomma, che hanno più a che fare con la corrida che con, e di questo mi lamentavo, cioè non del pubblico. La domanda è perché fanno questo programma. Esattamente, la domanda è quella: perché bisogna offrire a quel pubblico questo tipo di programmi? Cioè, questa è la mia domanda. Ma perché non a quel pubblico, al pubblico. Esatto, perché? Ma quando tu sai che quello è il tuo pubblico, il lavoro degli autori è allora continuiamo su questa strada, visto che piace, ed è lì l'inghippo, perché così non cresci tu proprio come qualità del programma. E invece si cercava di far capire come sia importante crescere rispetto all'esordio, perché come diceva Sergio Rinaldi, che qua ospita, autore di Aperitivo Corto, regista, ma è anche così una persona che ha avuto un grande successo proprio grazie a YouTube con un video che era Sesso a Milano, ne avevamo anche parlato, che ha raccolto più di 1 milione di visualizzazioni, e Sergio diceva: noi abbiamo fatto quel video così alla belle meglio, sì, ma mai più potremmo farne un seguito, perché non anche avrebbe se ce lo chiedono, ce lo chiedono cioè ogni volta che mi incontro mi dicono: ma quando arriva il numero 2? Ma però non avrebbe senso. Non ha senso assolutamente. Ecco, no. Perché tu dicevi: uno può così inventarsi una roba senza qualità e avere la fortuna di essere apprezzato dal pubblico, però poi non deve andare avanti su quella linea, deve migliorarsi. Deve avere l'intelligenza di dire: ok, va bene, se facciamo delle cose, usiamo questo successo, tra virgolette, che non lo vedo molto come un successo, perché da regista che veramente ha studiato, che ha fatto. Vincere un premio, essere chiamato da Pupi Avati per Sesso a Milano mi ha un po' lasciato così, però ok, usiamo questa cosa e andiamo avanti, facciamo magari, che ne so, dei format migliori, certo, ma infatti la chiave penso che sia proprio quella, per cui io, per rispondere a Carla e a tanti altri ascoltatori, io ce l'ho col programma, non assolutamente non col pubblico, che mi dispiace che venga trattato in questo modo in generale. Il pubblico, come viene trattato male, perché io considero un brutto prodotto, secondo me tratta male il pubblico in generale, questo vale per tutto l'arte, e a meno secondo me. Pensa che io a volte quando non so se c'è ancora il Maurizio Costanzo Show. No, c'è un'altra cosa. Ok. Io a volte che a me piaceva, diciamo, alla sera addormentarmi, perché la voce di Maurizio, secondo me, è un sì, po' così. Un po' biascicata, diciamo, ultimamente molto. Però a volte giravo canale quando portava sul palco dei casi pietosi. Che io dicevo: ma perché devi andare a raccontare a, che poi non è una roba magari in radio dove siamo in due, in tre col regista, lì c'è 100 persone, c'è un pubblico e ti guardano, e tu devi raccontare le tue cose con qualcuno che ti fa le domande e ti tira fuori delle verità private che spesso sono su copione. Un mio amico si è rifiutato di rispondere come volevano e si sono arrabbiati. Marco Montemagno, ciao, buona domenica. Ciao a tutti. Allora, Marco, grande esperto di web, e a parte sei anche il conduttore, diciamo mille volte ogni volta, Marco, ti abbiamo sempre ospite, giustamente, però non fa mai male dirlo, su Sky. E io volevo chiederti, sei a Londra in questo momento? Sì, UK. UK. La domanda riguarda il mondo, cioè la forza di YouTube e dei video... una forza straordinaria. A parte l'Italia, cosa succede nel mondo? Com'è per esempio la qualità? È uguale alla nostra? C'è più ricerca? C'è peggio? Non so, c'è ancora più, diciamo, carne al fuoco? Improvvisazione? Io direi che la premessa è questa: i numeri di YouTube oggi sono incredibili, perché fa più o meno 3 miliardi di visualizzazioni al giorno e 48 di ore di video vengono caricate ogni minuto su YouTube, quindi ha dei numeri incredibili. I numeri dei video che vengono visti di più sono molto pochi in prospettiva, cioè 1000 video alla fine fanno la maggior parte delle visualizzazioni di YouTube, e quindi a livello quantitativo si è messi così. A livello qualitativo c'è veramente di tutto, quindi la cosa interessante è che, siccome alla fine decidono le persone, decidono le persone che vogliono vedere i video, tu trovi, è vero che trovi una marea di video di gattini, no, e di bambini che piangono davanti alla televisione, ma dall'altro lato trovi moltissime guide e una marea di contenuti che vengono poi dettati da quella che è la richiesta del pubblico. Quindi devo dire che dipende molto dalla lente che utilizzo. Se mi concentro sui video di qualità, trovo video di qualità; se mi concentro invece sul cazzeggio, trovo il cazzeggio. Ecco, quindi tu dici, si sta aumentando anche la qualità in generale, quindi c'è comunque la voglia di fare un po' meglio il proprio video, di improvvisarsi un po' meno? Secondo me assolutamente, anche perché c'è un libro che suggerisco di Rachel Botsman, che si chiama What's Mine is Yours, quello che è mio è tuo, dove in sostanza si sostiene il fatto che siamo in un momento in cui la massima espressione di sé coincide con la massima condivisione, e quindi è molto interessante, questo riguarda YouTube e Facebook, ma poi riguarda il web in generale. Per cui è forte vedere come i contenuti, poi in forma, si vanno a modificare, si vanno a evolvere. Poi l'evoluzione passa sempre, no? Tramite la perdita di qualcosa per conquistare qualcosa di nuovo. Quindi è interessante, secondo me, come momento storico. Poi senz'altro c'è materiale per tutti i gusti, poi uno decide cosa gli piace. Hai una tua previsione sul sorpasso della rete alla televisione? Sulla televisione? Ma è già successo, nel senso che, ad esempio, in UK è già così. Ad esempio, per il mercato pubblicitario spende di più in internet rispetto a quanto spende in televisione, e poi come numeri è evidente che, se prendiamo, non so, Lady Gaga, Lady Gaga fa i video, gli spot, dei video dei propri clip, li fa prima per internet e poi pensando a quello che può essere la televisione, perché i numeri grossi li fa in rete, i numeri in realtà piccoli li fa sulla televisione, quindi questo è molto interessante. E per già questo passaggio. E per quanto riguarda l'Italia invece? Ma l'Italia siamo come sempre un po' indietro, però consideriamo che ci sono 20 milioni di persone che stanno su Facebook, siamo in un momento di grande fermento perché ci sono tantissime nuove iniziative, siti, le cosiddette start-up internet, e quindi devo dire che sono molto positivo, vedo un cambiamento in corso anche in Italia, arriviamo sempre un pochino dopo, no, per i soliti problemi che conosciamo. Ecco, però insomma ci arriveremo anche noi, meno male, questo ci consola. Ovviamente, Marco, ti lascio, visto che sei a Londra, vi ricordo i report su Sky TG 24. Grazie, ciao. Grazie, Marco. Buona giornata, ciao. Ha parlato Marco di tutorial, perché insomma funzionano tantissimo su YouTube, come cucinare questo, come fare quell'altro. Abbiamo preso quello di Clio, che è particolarmente brava a raccontare come ci si trucca. Ciao ragazzi! Oggi ho fatto questo tutorial ispirato al cat eyeliner, ovvero l'eyeliner stile gatto, però fatto con gli ombretti. È un trend che abbiamo visto tantissimo anche questo inverno, però l'ho voluto fare estivo, quindi con dei colori non nero grigio. Questo è il risultato, vedete che i miei occhi sembrano andare in su per via di questo effetto eyeliner, che non è, cioè eyeliner più che altro ombretto, c'è anche dell'eyeliner colorato, però è soprattutto ombretto, diciamo, e colorato per l'estate. Niente, spero che vi piaccia, seguite il tutorial, spiego tutto all'interno del tutorial, non sto qui a parlare troppo, e un bacione. Ecco, la forza di Clio che è molto simpatica, dicevi? No, che questa cosa naturalmente ha preso piede negli Stati Uniti, perché il trucco, le mani, specialmente in California, c'è questa cosa qua dove devi sempre tenere a posto tutte le mani, e hanno cominciato a fare i tutorial in americano sui prodotti, e ti spiegano come rendere più grandi gli occhi, le labbra più colorate, e mi fa piacere che questa cosa qui sia arrivata. Sì, poi arriva il market placement, cioè quando qualcuno diventa particolarmente conosciuto con questo tutorial, ci sono le case che ti dicono: usa il mio smalto, usa il mio rossetto, così tu lo fai vedere e fai, esatto, pubblicità. Esatto. E quindi diventa anche un modo per guadagnare dei soldi. Ma difatti una cosa che involontariamente, io sto prendendo degli appunti su, sì, questo pezzettino di carta, abbiamo iniziato praticamente con Claudio, che fa praticamente una serie via, sì, web, Freaks. Esatto, e poi con Marco, che tra le varie conosciamo, nel senso che anche Aperitivo Corto conosce, e giustamente Marco ha detto una cosa importante: l'investimento pubblicitario. Cioè mentre Claudio diceva: io vedo che praticamente i miei utenti guardano il mio dal numerello che c'è sotto YouTube, Marco ha detto: l'investimento pubblicitario sta salendo e quindi è più importante. Quindi bisogna collimare queste due convergeranno. Cose. Convergeranno, ne parliamo tra pochissimo con il nostro esperto di guerriglia marketing. Adesso gli aggiornamenti sul traffico. Il riposo del guerriero. L'hanno citato anche Tanner Rey dell'Italia 1, però non voglio entrare in questo perché faremo una puntata proprio sui serial. Che no, ridi? Viene da ridere. Perché... Ma perché è un'imitazione di quello inglese, sì, americano, però quello americano nasce su una realtà completamente diversa, cioè non è costruito, è proprio una realtà di un certo comportamento di italo-americani. Ma il fatto è che stiamo parlando di la rete che praticamente sta spingendo fuori dalla nostra agendina la televisione. E invece ci stiamo dirottando, no, perché arriva poi le persone giustamente guardano e poi fanno anche un po' un mischione. Sì, infatti. Fables, buona giornata, buona domenica. Ciao Stefano, buongiorno. Ciao. Buona domenica. Allora, stiamo parlando proprio di internet, della possibilità di inserire la pubblicità all'interno di alcuni video. Insomma, tu come esperto di guerriglia marketing ovviamente hai un occhio molto attento su questo aspetto. Vogliamo partire dal signore che ha cominciato a frullare ogni tipo di cosa nei suoi frullatori? Ah sì, sicuramente. Allora, lui è un personaggio che si chiama Tom Dixon, ha circa una settantina d'anni ed ha un'azienda di frullatori che si chiama Blender. Scusa, rido che perché succede? È in mente i video. Sì, perché che succede? Che sicuramente magari potrebbe essere un prodotto di per sé che ha poca appeal. E invece Tom Dixon è riuscito ad inventarsi una formula particolarmente vincente, cioè vale a dire una sorta di vero e proprio serial web, dove lui a cadenza settimanale frulla i prodotti più disparati. Quindi, lui prende un iPhone, lo mette nel frullatore e lo frulla veramente. Sì, esattamente. Per far vedere quanto è potente il suo frullatore. Sì, ha iniziato facendo delle vere e proprie partnership con prodotti particolarmente, con altri brand, per esempio con la Apple prima di tutto, quindi da sé che il suo video in cui frulla l'iPhone ha raggiunto quasi 10 milioni di visualizzazioni. Pensa che io non... è evoluto, è passato dall'iPhone all'iPad, insomma ha iniziato a frullare qualsiasi cosa, ha iniziato anche a fare partnership ad esempio con la Nike, frullando non so una scarpa da ginnastica. Quindi che succede? Che riesce a diventare un vero e proprio tormentone. Io non pensavo che esistesse una cosa di questo genere, perché una roba di questa l'ho visto in una puntata dei Simpson. Cioè ho visto praticamente che presentavano un prodotto, non un frullatore, ma una cosa di questo genere. Ecco, bisogna vedere se è nato prima l'uovo o la gallina, cioè se era prima la puntata dei Simpson o prima invece l'idea di questo Dixon. Com'è che si chiama lui, scusami? Tom Dixon. Ah, Dixon. Grande, esatto. Grande. Ecco, poi altri fenomeni della rete ovviamente che hanno a che fare con le produzioni. Tu ne avevi citato qualcuno, vuoi ricordarcelo? Ma guarda, io ad esempio ricordo, anche parli anche di personaggi, magari di youtubers che sono riusciti, diciamo, a diventare dei veri e propri tormentoni. In America ovviamente ce ne sono moltissimi. Shane Dawson, no? Ecco, c'è Shane Dawson ad esempio, che è forse tra i canali attualmente con il più alto numero di iscrizioni, che riesce veramente a raggiungere ormai cifre da capogiro. Ti dico solamente che il totale dei suoi video caricati su YouTube solamente per quanto riguarda il suo primo canale ha quasi raggiunto le 600 milioni di visualizzazioni. Ecco, lui si è costruito un personaggio che si chiama Ned the Nerd, giusto? Sì, esatto. esatto, questo è uno dei personaggi che lui utilizza all'interno della sua Shendouson TV, che rispettando la vera e propria programmazione televisiva, lui ogni domenica posta un nuovo video incentrato su magari un personaggio. Sì. Molte volte che cosa fa? Fa parodie anche di personaggi più o meno famosi. Ha preso molte volte di mira Paris Hilton, molte volte di mira Lady Gaga, altro personaggio comunque sia di per sé molto virale. E quindi che succede? Che questo personaggio, tra l'altro molto curioso anche il fatto che lui inizia e viene licenziato nella vita reale, questo Shendouson viene licenziato dopo che apre il suo canale YouTube. E tra l'altro il suo video attualmente più visto, quello in cui prende in giro un altro fenomeno della rete che è Fred. Quindi altra cosa interessante è che molto spesso questi youtubers un po' si lanciano la sfida, o comunque sia si rimparano da una parte all'altra, anche si danno a volte anche popolarità a vicenda. E un'altra cosa interessante anche per capire poi realmente quanto incidono questi annunci, visto che mi parlavi di annunci, c'è una stima che dice che queste persone qui guadagnano in media $1.50 ogni 1000 visualizzazioni ai loro video. Quindi se noi andiamo a fare dei calcoli, sì, piccole visualizzazioni, ovviamente, sì, ecco, per farti capire, ti ho parlato di 545 milioni di visualizzazioni, vuol dire che sono circa $650,000, insomma. No, certo che 545 milioni di visualizzazioni, sì, sono veramente tante. Ecco, è proprio questo, l'ultima domanda che ti faccio, Fables, è questa. Sì. Quante visualizzazioni deve avere un video in Italia, non so, possiamo distinguere le cose, in Italia e in generale nel mondo, perché possa essere un video di considerato un video di successo? Ma guarda, ovviamente oscilla molto il numero, ma soprattutto sta cambiando, cioè certamente magari, non so, ti posso dire che fino a pochi anni fa, un paio d'anni fa, su in Italia almeno bastava superare anche le 25.000 visualizzazioni, comunque ovviamente c'è sempre il limite della lingua, a meno che non si fa un video che possa essere comprensiva a chiunque, perché non utilizza magari un linguaggio particolare. Sì. In America ovviamente cambia tutto, secondo me fenomeni virali iniziano a nascere dalle 500.000 visualizzazioni in su. 500.000. E poi ovviamente ci sono anche casi virali che hanno visualizzazioni minori. Insomma. Quindi un caso italiano con 1 milione di visualizzazioni è un caso molto forte, secondo me. Ah, beh, sicuramente sì. Se Vabbè. Raggiunge il 1 milione di visualizzazioni per essere un video, ecco, specialmente se parlate in italiano, magari avrete parlato, non so, della Sara Cesira, che ormai riesce a fare video da quel numero di visualizzazioni, perché è riuscita comunque sia ad avere una massa di fan abbastanza alta. Insomma, anche perché la qualità anche del suo video si sta particolarmente alzando, perché sta facendo un lavoro sempre più accurato. Sì, anche perché riesce ad essere sempre poi, diciamo, sul pezzo, cioè riesce a fare una canzone nel momento in cui c'è quell'argomento. Quello è proprio talento, l'abbiamo detto prima. Grazie Fables. Grazie a voi. Bloggerriglia.it. Sergio, siamo alle ultime battute, a quelle conclusive. Quindi intanto vediamo di capire Aperitivo Corto come comincerà quest'anno, il 21. Il 21 giugno, praticamente primo giorno d'estate, sì. Inauguriamo un'applicazione su iPhone e basta. iPad. E poi tutti gli altri telefonini e smartphone che esistono? No. Iniziamo con loro, sì. E poi lanceremo anche su Windows. Segui le mode, insomma. Sì, esatto, per forza. E praticamente questa applicazione ti dà la possibilità di vedere uno dei nostri cortometraggi, quindi gratis, tutto gratis. Il problema è sempre quello che devi offrire al pubblico senza cercare di far pagare il pubblico, perché giustamente, come si è detto fino adesso, tutte queste visualizzazioni che vengono fatte su YouTube non è che vengono pagate dagli utenti, ma c'è quel bannerino che ogni tanto ci appare, che ci dà un po' fastidio, che noi gli clicchiamo la X. La pubblicità. E quella pubblicità praticamente. Ormai nei video più visti c'è proprio la pubblicità, neanche puoi chiuderla, devi per forza beccartela, sono 20 secondi di pubblicità. Sì. Che tra le varie però puoi decidere tu utente, se, cioè io che immetto dentro il video, praticamente YouTube ti chiede, vuoi su questo video mettere la pubblicità? Okay. E ad esempio sul mio Sesso a Milano ho sempre detto di no, quindi oltre 500.000 visitatori del coso non hanno mai pagato. Sei più di 1 milione, per cui insomma. Esatto, sì. Senti, io volevo capire dove si guadagna, cioè alla fine, ma non Aperitivo Corto in sé, quando si pubblica un video su internet, si cerca, perché è vero che tanti cercano magari la notorietà, no? Di essere, perché ormai si ha anche voglia di apparire, diciamolo chiaramente, che per molti, soprattutto per chi si fa vedere, non i registi che magari fanno una cosa per sperimentarsi come registi, ma chi invece si investe di attore, diventa attore di se stesso, parte tutto con parte un po' dalla voglia di farsi ammirare, esatto. Tra virgolette. Poi diciamo che normalmente se tu fai un video dicendo voglio avere 1 milione di visualizzazioni così guadagnerò qualcosa, quel video non andrà da nessuna come parte sempre, normalmente parte tutto da un'idea di dell'apparire, quindi faccio vedere come sono brava a truccare. C'era quella ragazza che non mi ricordo il nome, ma lo trovate subito, che insegnava a usare il computer e lei praticamente era sempre in shorts certo, in camera sua, e ti spiegava come funziona Word o come la linea internet, che cos'è. Ed era divertente perché vabbè, sta ragazzina che praticamente non si sapeva vestire, diciamo, facciamo finta così, però aveva un sacco di visualizzazioni. E lei è partita con l'apparire, come molti che noi ci sono dei fenomeni, perché veramente sono dei fenomeni che stiamo seguendo anche ultimamente, che diciamo che sono arrivati dopo Gemma del Sud e hanno iniziato da poco, da qualche mese, con i trucchi, con i vestiti, ma è tutto per apparire, e cominciano ad avere delle visualizzazioni. Poi c'è un'entità esterna, come potrebbe essere Aperitivo Corto, ma noi siamo piccolini, o aziende più grosse che ti notano, perché prima o poi finisci sulla loro pagina, sulla sì, loro bacheca, e dicono ma questa qua che usa questo trucco così, ma perché non proviamo a portarcela? Quindi c'è un modo per fare dei provini. Assolutamente. Dei provini sempre presenti sul, sì, sì, sul sì, web. Il problema è che è pericoloso, perché tu puoi essere nel bene e nel male, borderline, certo, o trash o bellissimo. Tra l'altro io non ho toccato il caso Gemma del Sud, perché poi pare che ci siano delle problematiche dietro quel personaggio, per cui che ma tu, ognuno praticamente può avere i propri problemi. Nel momento in cui tu ti metti in gioco, quindi sei sul video con Sesso a Milano o con qualsiasi cosa, tu sei lì, cioè il tuo punto zero è quello. Poi che tu abbia dei problemi o che tu non li abbia, fai 1 milione di visualizzazioni, chi compra la pubblicità guarda quel 1 milione di visualizzazioni. Tu poi magari l'hai fatto per far vedere al tuo ex fidanzato che magari sei più brava e più bella di tutti, va bene, fai 1 milione di visualizzazioni, arriva uno e ti dice senti, ma io ti compro quel video, mettiamo il banner, lo compriamo, mettiamo prima la pubblicità. Non è che si preoccupa della tua situazione precedente, loro partono dal punto zero, che è il tuo video postato online. Certo, io comunque sono convinto che fate quello che volete, ma fate, ecco, preferisco le persone che fanno, magari anche una cosa proprio fatta per caso, anche brutta, ma almeno l'hanno fatta, piuttosto che quelli che invece non fanno niente e non si smuovono di ce ne sono centimetro. Un sacco di gente che continuano a proporre già dobbiamo andare di là, facciamo così, facciamo così, e poi sei sempre fermo. Invece bisogna muoversi assolutamente. Se vuoi resta con noi Sergio, e adesso c'è il momento del nostro gastronauta. Il gastronauta Davide Paolini, buongiorno, ciao. Buongiorno, buongiorno a tutti, buona domenica. Dove sei? Su cosa mi provochi oggi? Oggi non ti provo, sai, oggi parliamo di rete. Io so che tu ancora un po' stenti, non sei uno di quelli che va sulla rete a cercare ogni volta i ristoranti migliori sul web, per esempio. No, perché penso di saperli e di conoscerli, perché quindi perché ho la presenza di andare in rete. Ma neanche di cercare le ricette, perché io so che non sopporti molto quelli che sul web insegnano come fare questo, come fare quell'altro. No, in genere, cioè, ma no, sul web, un po' dappertutto, cioè questa ricettomania non l'amo molto, anche in televisione. Ma ci sono un sacco di nonne, per esempio, che su internet fanno vedere come cucinano la pasta, ma piuttosto no, che no, la torta. Sai, io rispetto molto diciamo le idee e la democrazia di altri, quindi per carità. Dico che cioè, la ricettomania è una cosa che non mi prende. Magari cioè, mi interessano di più i prodotti, è noto ormai la mia predilezione per i prodotti rispetto a chi poi cucina e li elabora. Io credo che la vera arte sia quella di produrre, non quella di elaborare, di maneggiare poi alla fine in cucina. Quindi sicuramente ora devo dire che sui prodotti non c'è tantissimo da scoprire in rete, perché ormai diciamo che tutto quello che viene prodotto in Italia, anche diciamo quelli che prodotti che vengono chiamati di nicchia, non è che siano notissimi, però si conoscono, almeno chi si occupa di queste cose li conosce, però è evidente che la rete serve sempre, per carità, non dico che non serve, magari per approfondire, qualche volta uno scopre un prodotto, vuole capire un po' chi c'è dietro, se ci sono anche dei produttori, la rete serve a questo, però sicuramente non lo uso per le ricette, anche perché io non amo molto cucinare. Ecco, ma se facessimo un canale di YouTube dedicato al gastronauta, dove tu ogni settimana hai un video che magari dove ti si vede a intervistare un produttore piuttosto che... Sì, io questa cosa l'ho fatta anni fa sulla 7, che erano i viaggi del gastronauta. Sì. Ho viaggiato in lungo e in largo, erano diciamo di trasmissione di 13 minuti, proprio che facevo questo tipo di diciamo di trasmissione, cioè andavo in un territorio, sceglievo un prodotto, andavo dal produttore, gli chiedevo le cose fondamentali e magari mi facevo vedere qualche fase di produzione, anche diciamo quelli che producono veramente molto ma molto poco, che poi succede anche che tu parli di un produttore, in realtà poi qualcuno chiama e non c'è la produzione perché la produzione è molto limitata. Ecco, io credo che questo sia abbastanza importante, vedere come nasce un prodotto anche per rendersene conto. Oggi si parla molto di sicurezza, si parla di filiera corta, si parla di chilometro zero, io credo che questo sia fondamentale. Se dovessi pensare a diciamo dei filmati, dei video che mi riguardano, che riguardano il gastronauta, è proprio questo che io... così vorrei fare e farei molto volentieri. Ecco, allora si può pensare a un canale video dedicato al gastronauta, potrebbe essere una cosa da mettere in piedi. Sergio, forse avevo una domanda per te. Sergio, no, era una considerazione che sì. In effetti quando sei sulla 7 o se in quell'ora, in quel momento e guardi la trasmissione o altrimenti te la perdi su internet in qualsiasi momento puoi andare a vedere, certo, quindi questa chiaramente è una forza. Davide, tu lo so che sei poco avvezzo alla rete, non sei un internauta, non è che passi le tue giornate a guardare internet, passi le tue giornate invece a cercare, come dici tu, dal vivo. Ma credi davvero che la rete in Italia presto possa spodestare in qualche modo la televisione? Sì, penso proprio di sì, anche perché è giusta l'osservazione che è stata fatta dal tuo ospite, nel senso che molta gente che perdeva le mie trasmissioni mi chiedeva cosa doveva fare. È evidente questo, che sicuramente con se tu un video te lo puoi rivedere è fondamentale, perché non è che tu tutti i giorni sei a quell'ora davanti al televisore, magari in quel momento ti chiamano al telefono e perdi proprio la fase fondamentale, quindi avendo un video te lo puoi rivedere. Tu dicevi non passo le giornate, no, perché la differenza tra gastronauta e internauta sono fondamentali. Il gastronauta è quello che viaggia e va a vedere de visu. Invece l'altro se lo vede semplicemente trasmesso da altri oppure riproposto. Io dico sempre che molti che scrivono di prodotti e ovviamente di gastronomia forse dovrebbero usare meno la rete e meno il telefono, dovrebbero andare direttamente per poi scrivere dei produttori e dei prodotti, perché la realtà molte volte è molto diversa. Sui video molte volte vedi quello che ti vogliono far vedere, e magari se tu vai da un casaro e ti fa vedere le fasi della produzione ben pulita, perché in quel momento c'era qualcuno che riprendeva, poi se ci vai durante i momenti normali probabilmente non è proprio così. Io sono molto d'accordo con te, sai che sono uno che deve provare con mano prima di raccontare, altrimenti non si fida mai abbastanza. Grazie Davide, alla domenica prossima. Permettimi un'ultima battuta. Come no? non voglio dire provare per credere, perché ha fatto una brutta fine, si diceva così. Quindi, però devo dire che è una battuta che ci sarebbe a fagiolo oggi su quello che abbiamo detto. Assolutamente, concordo. Ciao Davide, buona domenica ancora. Ciao. E resta con me Sergio. Adesso ci sono le previsioni del tempo, perché comunque non abbiamo detto il sito, lo raccontiamo, così chi volesse informarsi su aperitivo corto e altro può farlo. Il riposo del guerriero. Tra poco c'è il mistero in 24 minuti, mi fa piacere, la puntata si è un po' allungata, ma sono arrivati tantissimi commenti anche su internet, veramente molti, quindi... promesso, il riposo del guerriero si occuperà ancora di questo tema in una delle prossime puntate, dobbiamo farlo per forza. Sergio, diamo velocemente il sito per iscriversi il 21, allora, alla manifestazione. Il 21 lanciamo l'applicazione su iPhone e iPad, sì. Quindi è già disponibile e si può scaricare. Sempre il 21 a Milano Le Bank facciamo una festa per gratuita, ovviamente, però bisogna entrare se si è in lista. Per entrare in lista www.aperitivocorto.it e si accede alla festa. Un mistero in 24 minuti. Per voi la possibilità di portarvi a casa fino a 1000 euro da spendere su libreriarizzoli.it, ammesso che riusciate a risolvere il mistero. La risposta può essere o una notizia della settimana, oppure un personaggio o qualcosa di particolarmente conosciuto. Il numero verde 800 24 00 24 e questo è il primo indizio. Primo indizio, Federico da Lucca, ciao, buona giornata. Sì, ciao Stefano. Ciao Federico. Allora, abbiamo 1000 euro qua sul piatto, cosa vuoi fare? Cioè, un'idea ce l'avrei, però è sempre rischioso. Ho già capito che andiamo a 500 euro. Mi sa di sì. E vuoi un secondo indizio? Esatto. Eccolo qui, arriva da Ivano Fossati. Nina, ci vogliono scarpe buone e gambe belle, Lucia. Nina, ci vogliono scarpe buone, pane, fortuna e così sia. Ma soprattutto ci vuole coraggio a trascinare le nostre suole da una terra che ci odia ad un'altra che non ci vuole. Straordinario testo questo di Ivano Fossati, il pane e coraggio. Allora Federico, io ti faccio pensare gli aggiornamenti sul traffico e poi mi dai la risposta. Un mistero in 24 minuti. Allora Federico. Allora, la parola coraggio in realtà un po' conferma l'idea che avevo iniziale della notizia, che è notizia, è una foto e c'entra anche con l'argomento di oggi, quella foto bellissima di quei due ragazzi che si baciano, che si immaginano in mezzo alla polizia, in mezzo agli scontri in Canada. È un'immagine bellissima dove questi due, insomma, un contrasto, certo, un contrasto bellissimo. Grazie Federico per la risposta. Buona ciao. Domenica. Ciao. Ciao. Come sempre lo scopriremo al 24esimo minuto se la risposta è quella giusta o meno. Alberto, dalla provincia di Modena. Buongiorno. Ciao Alberto. Allora, due indizi li abbiamo scoperti. Siamo a 500 euro. Che cosa vuoi fare? Ma io volevo dare una risposta perché avevo già una mezza idea. Allora, aspetta che sentiamo quali sono i due indizi che abbiamo scoperto fino a questo momento. Pane e coraggio ci vogliono ancora, che questo mondo non è cambiato. Eccolo qui, Message in the Battle, Police e Pane e Coraggio, Ivano Fossati. Alberto. Io avevo pensato a una notizia che si è sentita in settimana di un ladro che è entrato in un forno a Genova e non riusciva più a uscire, ha chiamato il 113 per essere liberato. Grazie Alberto, grazie. Buona domenica, ciao, notizia curiosa. Gianluca da Padova. Sì, pronto. Ciao Gianluca, buongiorno. Allora, cosa vogliamo fare? Ma proviamo ad ascoltare un altro indizio. Va bene, questa è una canzone di quanti anni hai Gianluca? 43. Vabbè, allora forse te la ricordi, eccolo qui il terzo indizio. C'era un po' la guerra dei falsetti, no? Dai Cugini di Campagna, beh, partendo dai Bee Gees, ovviamente, questi erano i collage di Tu mi rubi l'anima. Te la ricordi questa canzone, Gianluca? Vagamente, perché sei troppo giovane, ecco, dovresti avere qualche anno in più. Allora, Gianluca, questo era il terzo indizio, siamo a 300 euro in questo momento. Ma io provo a dire, come personaggio, provo a dire Maroni. Maroni. Sì, da quelle che sono le posizioni di posti. Sì, sentiremo oggi cosa succederà. Grazie Gianluca, buona giornata. Ciao Chiara dalla provincia di Milano. Ciao. Ciao Chiara, buongiorno. Buongiorno a te. Tu sei una che naviga, che guarda i siti internet? Quel cerchio video. Assolutamente, ormai non si può più farne a meno. Eccola qui un'altra. Allora Chiara, cosa vuoi fare? Allora, io do la risposta. Bene, 300 euro. Bravo, secondo me è quel deputato che si è dovuto dimettere per aver inviato via messaggio delle fotografie delle proprie parti intime alle proprie elettrici. Sì, su pari degli Stati Uniti ovviamente. Esatto, sempre per rimanere in tema internet. Vabbè, su Facebook aveva questo suo contatto così, insomma, dove faceva vedere il suo petto nudo e palestratissimo, e lui ha ammesso che ha usato quel sistema per così cercare di portarsi a casa qualche fan. Grazie Chiara, a te, buona ciao. Giornata, ciao Umberto dalla provincia di Latina. Pronto? Ciao Umberto, siamo ancora a 300 euro tra gli indizi scoperti fino a questo momento. È abbastanza difficile, però provo a dare la mia... Allora aspetta che sentiamo quali sono i tre indizi scoperti. Pane e coraggio ci vogliono ancora, che questo mondo non è cambiato. Message in the battery, police, pane e coraggio, Ivano Fossati, tu mi rubi l'anima, i collage. Umberto. Io avevo pensato alla pubblicità abusiva sull'isola di Budelli, sulla spiaggia... un'altra pubblicità, perché la settimana scorsa abbiamo parlato di quella dei bronzi di Riace, la risposta. Grazie Umberto. Grazie, buongiorno. Buona domenica, grazie. Emilio dalla provincia di Siracusa. Ciao. Ciao Emilio. Allora, cosa vogliamo fare? Io do la risposta. Anche tu, eccoci qui. Anche perché qualcuno ha detto la risposta che avrei dato per primo. Però vario un pochino. L'argomento è politico, la sì? riforma fiscale. Il botta e risposta tra Maroni, Tremonti, Berlusconi. E comunque la... do la riforma fiscale. Eccola qui, questa è la risposta. E Emilio, mi dici quale sarebbe stata la prima, per curiosità? Maroni. Maroni, che invece Gianluca aveva detto. Grazie, grazie Emilio. Grazie a voi. Buona giornata, ciao. Giampiero della provincia di Varese. Sì, ciao. Ciao Giampiero, eccoci qui. Guarda, io brancolo nel buio, ho un altro aiuto. Vuoi un po' di luce? Sai che non ce la facciamo a farti sentire un altro indizio. Eccolo qua. Giampiero, facciamo che puoi ripartecipare, non darmi una risposta. Quindi bene, potrai richiamare anche la settimana prossima e prenotarti. Ok, grazie. Grazie Giampiero, ciao. E l'abbiamo il vincitore, ma non ce l'abbiamo al telefono, per cui comunque lo dichiarerò, facciamogli sentire che è un vincitore. Bravo Alberto! Eccolo qua. La risposta è proprio questa: un ladro ha rubato in una panetteria a Genova, in via del Campo per essere precisi, sarebbe stato il prossimo indizio infatti, però è rimasto chiuso dentro il negozio, ha chiamato la polizia per farsi aprire il negozio ed è stato arrestato. No, sorrido, però insomma mi dispiace Sergio, grazie a Sergio Rinaldi per essere stato con noi, grazie. Ci vedremo chiaramente in aperitivo corto, in reazione a Giorgio De Luca come sempre che ringrazio, grazie a Laura Vanossi in assistenza, Filippo Reggi in regia e a voi. Ci sentiamo ovviamente domenica prossima, puntuale alle 10 con il riposo del guerriero. E grazie a tutti gli ascoltatori che hanno scritto lunghi commenti su Facebook e che sicuramente saranno lo spunto per costruire una puntata, una nuova puntata proprio su questo argomento, quello di oggi. Insomma, la rete, la TV e in generale la cultura dello spettacolo. Vedremo di costruirla presto. Ancora buona domenica da Stefano Gallarini.